Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Globetrotter 24 di Valeria De Rosa. Un buon pomeriggio, l'autunno è alle porte con il suo profumo e i suoi colori che secondo alcuni sono i più belli dell'anno. L'aria è frizzante e la tavola regala sorprese. Il sommario. Questa settimana andiamo a camminare o in bicicletta nel cuore delle Dolomiti in provincia di Belluno, poi scendiamo in Abruzzo per entrare nel castello Piccolomini di Urtucchio e poi risaliamo in Veneto per entrare nelle cantine di Conegliano e Valdobbiadene. Araba è una frazione del comune di Livinallongo, del Col di Lana, ai piedi del Passo Pordoi. Fa parte del comprensorio Dolomiti Superski e dunque si potrebbe pensarla protagonista dell'inverno. In realtà Araba è fortunata perché in ogni stagione ha da offrire. Ed è proprio l'autunno il momento migliore. Ce lo racconta Manuel Roncat, presidente di Araba Fodom Turismo. Definire che siamo aperti per ferie e quindi non appena si sia potuto muovere la nostra località ha aperto seguendo poi quello che erano le classiche disposizioni, scoprendo con un po' di stupore che praticamente nessuna struttura ha dovuto acquistare prodotti diversi da quelli che già aveva, quindi la sanificazione veniva già fatta proprio dato dalla grande percentuale di ospiti esteri e le nostre strutture avevano già una linea di sicurezza già negli anni scorsi, insomma, ecco, quindi non ci ha colto impreparati per poter riaprire, ci ha colto impreparati un po' la pandemia. Tuttavia qua abbiamo una libertà naturale, se vogliamo definirla. Ecco, allora parliamo un po' di questa libertà naturale, come l'hai definita, perché a questo punto vogliamo un po' sapere che cosa si può fare venendo da voi. Ovviamente voi siete in montagna, nel cuore delle Dolomiti, quindi cerchiamo un po' di capire, ad esempio in questo periodo dell'anno, che cosa proponete. Questo che secondo noi, e secondo noi significa secondo chi vive le Dolomiti 365 giorni all'anno, è il periodo più bello in assoluto. Questo è il momento in cui inizia il foliage in Dolomiti, è il momento in cui noi definiamo che le foglie si trasformano in fiori, quindi settembre, la fine di settembre, dopo la metà di settembre e il periodo di ottobre, noi abbiamo dei colori in zona Dolomiti che sono davvero unici. Quindi per innamorarsi, oppure se già si è innamorati e si vuole vivere un qualcosa fuori dal comune, in totale libertà, praticamente isolati naturalmente, questo è il periodo migliore per vivere le Dolomiti. Ricordo che settembre, a differenza di altre destinazioni turistiche, la prima metà è per noi un secondo agosto, quindi abbiamo i colori di agosto, la fioritura di agosto, le temperature, il mese di settembre è un mese stabile, quindi rimanendo stabile, anche come temperature da noi è un secondo agosto, quindi è uno spettacolo, il verde che c'è sulle Dolomiti è il verde che si vede in cartolina. La metà di settembre, quindi dopo il 15-20 settembre, cambia in maniera repentina e per primi cambiano i colori e quindi è davvero uno spettacolo. Si abbassano leggermente le temperature, ma le Dolomiti sono un luogo relativamente secco, quindi una volta che ci si copre dal freddo o dal fresco della mattina, non abbiamo un freddo o un fresco penetrante, sufficiente una giacca per godere comunque appieno tutti i panorami. Ovviamente immagino che il modo forse migliore per assaporare questo tipo di panorami sia quello di camminare, però immagino che ci siano anche percorsi, così vado un po' a naso, anche percorsi per bicicletta. Sì, questo ci differenzia molto da tante altre destinazioni. La montagna è bella ovunque, in tutta Europa. La particolarità delle Dolomiti è che tutto attorno, ad esempio al Sella Ronda, noi abbiamo 80 chilometri di, chiamiamola, pista ciclabile per mountain bike. La spiego in 30 secondi. Partendo dal paese, con l'utilizzo di un summer pass, quindi di uno ski pass estivo, con la mountain bike al seguito, si sale in quota oltre i 2000 metri e poi si scende lungo strade bianche oppure lungo percorsi dedicati alla mountain bike. Non si riesce in una giornata intera a percorrere due volte la stessa tratta e quindi dà un senso di libertà che non ha uguali. Le Dolomiti hanno anche poi la particolarità che ogni tot centinaia di metri cambia il paesaggio, perché le guglie delle Dolomiti ogni tot 100 metri non sono le stesse, non è la montagna che ha una cima e due fianchi, è proprio completamente frastagliato e ogni tot centinaia di metri cambia completamente il panorama, quindi è estremamente suggestivo. Per quanto riguarda, visto che citavi la possibilità, no, di andare in quota in bici e poi fare il percorso, per quanto riguarda i rifugi, immagino che anche da questo punto di vista vi siate attrezzati per accogliere i turisti, i viaggiatori, anche perché poi ovviamente è bello stare all'aria aperta, è bello camminare, è bello andare in bici, ma è bello anche sedersi e mangiare e bere, perché da quelle parti lo si può fare, diciamo così, veramente gustando quello che si trova. Sì, allora si trova un po' di Dolomiti lifestyle un po' ovunque. Non sono ristoranti, sono rifugi alpini, sono quasi tutti a gestione familiare, quindi c'è sempre l'impronta di una persona, c'è sempre il cuore prima del lavoro, quindi l'occasione di fermarsi sui rifugi, noi siamo assolutamente attrezzati. Ogni tot chilometri di percorso abbiamo rifugi aperti, sia in quota, non abbiamo il rifugio aperto solo in cima alla montagna, anche a metà percorso, riporteremo, o comunque è stato riportato in gran parte, ciò che offriamo d'inverno lo riportiamo sull'estate, quindi rifugi aperti, servizi aperti, stare bene, mangiare bene e un buon bere, che è un po' il nostro stile di vita italiano da esportare anche all'estero. L'ultima domanda che voglio farti è questa, relativa più che altro ai trekking. Immagino, ma correggimi se sbaglio, che ci siano varie difficoltà, quindi che sia possibile sia per, diciamo così, un principiante che per chi è più allenato. Sì, e questa è una particolarità tutta nostra, cioè qualsiasi località montana ha degli itinerari spettacolari, in quota particolari, ma qualsiasi località montana presuppone delle ore di avvicinamento camminando. Noi saltiamo questo paradigma perché dalla nostra località, utilizzando gli impianti a fune, già partiamo dai 1600 metri di media, insomma, dei paesi, arriviamo ai 2000-2400 metri, dove partono gli itinerari più belli. Quindi si evitano quelle 2/3 ore di avvicinamento camminando per arrivare a fare l'itinerario trekking. Questo aiuta molto anche chi non è pratico, ecco, non direi principiante, direi chi non è pratico, chi non ha l'allenamento per camminare 12 ore. Questo aiuta molto e toglie dalle 2 alle 6 ore di camminata e lascia davvero la gioia e il brivido di vivere l'itinerario che dura dalle 2 alle 4, alle 5 ore, poi dipende dall'itinerario che si sceglie. Abbiamo sì varie difficoltà, dalla famiglia fino al singolo, non bisogna essere super esperti, bisogna essere un po' sicuri in quello che si va a fare, un po' attrezzati, che l'attrezzatura in montagna il più delle volte è uno scarponcino piuttosto che una sneaker. Ecco, questo noi lo consigliamo sempre. E da non dimenticare la crema solare, perché in Dolomiti ci si abbronza di più, con una abbronzatura più bella, e ci si abbronza meglio che al mare, non perché siamo più vicini al sole, ma perché l'aria è estremamente pulita e rarefatta. E per i bambini consigliamo la protezione da 30 a 50, perché ci si abbronza davvero bene e in fretta, o ci si brucia se non si utilizzano le precauzioni. Oh, I miss the comfort of this house, where we are, where we are, where we are, where we are. Dal Veneto ci spostiamo in Abruzzo. Questa regione, lo abbiamo detto tante volte, può essere una continua sorpresa, perché il mare, le montagne, i parchi, gli orsi, anche i lupi, l'architettura, la storia e tanti castelli. A Ortucchio, che già da solo varrebbe la storia perché è un borgo nato nel mezzo del lago del Fucino che venne poi prosciugato, c'è un castello, Castello Piccolomini. Paola Mariani è la guida che ci accompagna nelle stanze e nelle leggende. Eravamo fortemente convinti che non sarebbe stato come l'anno scorso, causa Covid, e anche perché molte persone hanno paura proprio a spostarsi. Invece ci siamo dovuti ricredere, perché quest'anno abbiamo avuto una massiccia presenza di turisti, ovviamente maggiormente italiani, perché l'anno scorso abbiamo lavorato anche con molti stranieri, e questo ci ha veramente regalato tanta gioia, perché è stato bello vedere che le persone, nonostante tutto, hanno la voglia di scegliere di uscire e di restare in Italia, e soprattutto anche perché molte persone ovviamente hanno deciso di fare un turismo alternativo, ecco, riscoprendo luoghi storici come castelli, borghi medievali, quindi non era più la solita vacanza marittima ovviamente del periodo estivo. Abbiamo citato il castello, allora entriamo, anzi accompagnaci all'interno del Castello Piccolomini, che è un castello che ha una storia piuttosto lunga e anche un po' articolata. Sì, esatto, il nostro rappresenta uno dei rari castelli da costruire in Italia, perché si trovava su un'isola, l'isola di Ortigia, che si trovava all'interno del terzo lago più grande d'Italia, il lago del Fucino, che è stato prosciugato da Torlonia intorno al 1870. Il castello infatti è molto antico, perché inizia la costruzione del castello come un semplice faro. La torre era un faro per i pescatori. Poi verso la metà del 1400 arrivano i conti di Celano e costruiscono l'incastellamento. Dopodiché arriveranno i Piccolomini da Siena, che realizzano il castello come lo vediamo oggi in tutto il suo splendore. E la particolarità del castello di Ortucchio è che ha due ingressi: un ingresso nobile con un ponte levatoio e un ingresso dalla parte del lago, quindi con un ricovero dell'imbarcazione, una persona a cielo aperto. Tra l'altro è un castello che si conserva benissimo, per cui ci si può davvero rendere conto delle varie fasi e anche un po' avere un'idea di come si poteva vivere all'interno di questo castello. Esattamente, perché in effetti ancora abbiamo dei luoghi al chiuso, diciamo, nonostante la maggior parte dei luoghi sono all'aria aperta, perché ovviamente le strutture sono crollate, però abbiamo l'opportunità di visitare le scuderie, le cucine, abbiamo la possibilità di visitare la prigione, perché la torre è stata sede di prigionia di una contessa, la contessa Jacobella da Celano, anche perché il castello di Ortucchio nasce come una fortezza, quindi è possibile fare tutto il giro di ronda e posizionarsi nelle varie torri di avvistamento, dove lì vi era un sistema di un circuito tra le torri che si trovavano nelle alte del lago. C'era una sorta di sistema di comunicazione tra le torri e i vari castelli che si trovavano nel bacino lacustre, che comunicavano con degli specchi giorno e la sera invece con delle torce infuocate. Senti Paola, c'è anche una vista meravigliosa dalle torri del castello, perché si può salire su e si può vedere veramente l'orizzonte molto in lontananza. Esatto, salendo proprio sulla torre maschio c'è la possibilità di vedere proprio il tetto del Fucino, c'è una visuale veramente straordinaria, soprattutto all'ora del tramonto, là ci si può rendere conto di quanto fosse fosse grande quello che era il terzo lago più grande d'Italia, che adesso ha lasciato posto ovviamente a delle terre, perché poi c'è stata la bonifica del Fucino, quindi i pescatori sono diventati contadini e da lì possiamo ammirare quanto dovesse essere grande questo lago. Infatti, visto dall'alto, sembra che questo lago si trovasse all'interno di un cratere di un vulcano ormai spento. Tu citavi una storia legata alla prigione, ci sono delle storie particolari legate al castello Piccolomini? Sì, c'è proprio una storia legata a questa contessa che in effetti era la padrona del castello, lei era la contessa Jacobina da Celano, che possedeva tutta la contea di Celano, inclusa la baronia di Pescina e la roba di comune di Ortucci, appunto. E lei fu rinchiusa dal suo figlio Ruggero proprio all'interno del castello di Ortucci e dovette aspettare l'arrivo di un papa che forse tardò ad arrivare, il papa in questione doveva essere Napoleone Orsini, che dovette arrivare a liberare questa contessa. E poi c'è una leggenda che si tramanda di generazione in generazione, dove si racconta che delle notti di luna piena si sentivano i gemiti della contessa all'interno del castello. In effetti poi non era così, perché nella Marsica nel 1915 ci fu un disastroso terremoto e questo terremoto ovviamente portò questo castello in piazza della distruzione, quindi il vento invernale che passava tra le macerie creava questo turbinio. Però noi siamo cresciuti con il ricordo della contessa, quindi questa leggenda che la contessa gridava dall'interno del castello. Ci fermiamo solo per qualche istante, restate con noi. Blumatica, il software scelto dalle aziende per la sicurezza dei lavoratori. Blumatica.it vi presenta Globetrotter 24. Torniamo in Veneto, questa volta andando per cantine. Una buona annata per Conegliano e Valdobbiadene e una ottima occasione per degustare e prendersi del tempo tra le colline. Innocente Nardi è il presidente del Consorzio di Tutela del Prosecco. Nelle colline del Conegliano Valdobbiadene la natura è andata avanti per il meglio, noi abbiamo 7500 ettari che quest'anno hanno prodotto dell'uva di assoluta qualità, uva sana, il territorio è particolarmente vocato per la produzione del Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene e le temperature non particolarmente alte dell'intera annata hanno favorito la produzione di uve che adesso stanno trasformandosi in base spumante particolarmente interessanti dal punto di vista della carica aromatica, della freschezza del prodotto, appunto perché hanno un contenuto di profumi particolarmente interessante. Presidente, è sicuramente questo un anno particolare e immagino che per quanto riguarda quello che di solito è l'ospitalità nelle cantine, anche qui vi siate dovuti omologare a quelle che sono le necessità dal punto di vista sanitario. Ma le persone hanno anche voglia di uscire, di stare all'aria aperta e nel frattempo, se possibile, assaporare qualcosa di buono. Ci racconti un po' come se vi state preparando a quello che di solito è il periodo proprio migliore per venire nelle cantine? Ma il periodo migliore sicuramente è la primavera, l'estate e l'autunno. È un territorio, territorio di Conegliano Valdobbiadene, che è stato recentemente riconosciuto patrimonio dell'umanità UNESCO per il proprio paesaggio, quindi un territorio unico nel suo genere, dove chiunque si rechi in queste colline può vedere l'aspetto eroico dei nostri viticoltori. Sono 3.300 famiglie che lavorano quotidianamente su pendii molto scoscesi, le pendenze arrivano fino al 70%, quindi è veramente una viticoltura eroica e dove il paesaggio è composto da una alternanza tra vigneti e boschi, rendendo questo paesaggio cosiddetto a mosaico, ovvero proprio questa perfetta integrazione tra quello che era e quello che l'uomo con le proprie mani ha saputo ricamare su questi pendii. Le trentine ovviamente si stanno attrezzando a quelli che sono i dispositivi di sicurezza. Noi abbiamo il privilegio di avere queste vigne che sono all'aperto, che sono molte volte adiacenti alle cantine stesse, e quindi il visitatore, oltre che a visitare la cantina, a conoscere il processo di produzione del Conegliano Valdobbiadene nel Prosecco dal punto di vista enologico, ha la possibilità di degustare e soprattutto di visitare, di vivere il territorio, le vigne, i boschi che sono vicini, e questo chiaramente aiuta in una situazione di difficoltà proprio il visitatore a cercare queste soluzioni che garantiscono sicuramente una sicurezza in termini proprio di sanità. Quindi è un territorio che soprattutto in questo periodo deve essere visitato, proprio perché coniuga, oltre alla bellezza delle colline stesse, la sicurezza relativamente alla pandemia. Ci racconti anche un po' allora del territorio, perché chi viene ovviamente viene per degustare, ma forse anche per fare un giro. Quali sono, se ce lo può dire, i suoi posti del cuore? Ma guardi, allora innanzitutto Conegliano Valdobbiadene è un piccolo territorio, sono 15 comuni, siamo a 50 km da Venezia e 100 km dalle Dolomiti. Siamo chiaramente nella zona prealpina, queste colline che sono disposte a cordonate, ovvero queste cordonate di vigneti che si estendono da est a ovest. Sono particolarmente interessanti le due capitali, Conegliano e Valdobbiadene. Conegliano perché rappresenta la capitale culturale di questo territorio e tra l'altro la capitale culturale del fenomeno Prosecco. A Conegliano c'è la prima scuola enologica nata in Italia, 1876. Non dimentichiamo che Conegliano è il paese di Giambattista Cima, quindi pittore del Cinquecento, particolarmente interessante proprio perché ha introdotto la visione del paesaggio dietro alle Madonne, a tutte quelle figure religiose che disegnava. Un paesaggio che sono appunto i colli di Conegliano, che oggi sono riscontrabili proprio così come nel 1500, quindi merita una visita interessante, soprattutto nel Duomo di Conegliano. Oltre a Conegliano ovviamente andiamo a Valdobbiadene, che è l'altra capitale, che è sicuramente diciamo il riferimento per quanto riguarda la bellezza di viticola nella coltivazione delle vigne. Abbiamo a Conegliano una zona, una sottozona che rappresenta il cru della denominazione Conegliano Valdobbiadene, che è il Cappisse, 107 ettari solo, e sono praticamente il territorio che dal punto di vista storico è il territorio più antico emerso nel periodo del glaciale prima di altre aree, e ha una ventilazione e una escursione termica che rendono permettono la produzione di vini particolarmente floreali. Ovviamente tra queste due capitali, Conegliano e Valdobbiadene, c'è un susseguirsi di colli, molte volte che presentano in cima i colli delle chiesette. Penso ad esempio alla pieve di San Pietro di Faletto, 1200, dove già a quell'epoca ci sono delle raffigurazioni che rappresentano il Cristo della Domenica, che fondamentalmente era un modo per incentivare gli abitanti dall'epoca di santificare la festa, e si vedevano proprio gli attrezzi, gli arnesi da lavoro per i vigneti, quindi denotano proprio questa vocazione alla viticoltura. Però, ripeto, ci sono tantissimi altri posti da visitare, e soprattutto ci sono, noi lo chiamiamo il percorso della gastronomia, un susseguirsi di ristoranti di assoluto livello che rappresentano al meglio la gastronomia locale, che permettono poi la combinazione tra l'ottimo Conegliano Valdobbiadene nel Prosecco Superiore e i piatti tipici di questa zona, come ad esempio lo spiedo. Credo che sia un territorio piccolo, adatto per essere vissuto, e a dimensione Duomo, chiaramente per un pubblico che ama l'ambiente, ama il rispetto, ama il green, e credo che questo con Conegliano Valdobbiadene possa veramente essere una piacevole sorpresa per questo tipo di visitatori. E se passate da Conegliano, segnaliamo anche la mostra Il racconto della montagna a Palazzo Sarcinelli, una mostra sostenuta dal consorzio in cui il paesaggio diventa cardine di un mondo disegnato dai viticoltori. Per questa domenica ci fermiamo qui, come sempre se volete scriverci globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it.